Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto. Questa puntata, come l'intero programma, è anche di Riccardo Silvi, il nostro redattore, di Alessandro Chiappini, il nostro regista questa settimana, e sarà della nostra guida Paola Calvetti. Benvenuta. Grazie. Paola Calvetti è giornalista, ma al quinto romanzo, diciamo, forse è meglio dire scrittrice giornalista piuttosto che giornalista e scrittrice, come leggiamo. Quinto romanzo, appena edito da Mondadori, si intitola Noi due come un romanzo e ha come idea grafica un oggetto che diventa sempre più raro, ma per quelli di una certa età, cioè la mia, rimanda a delle stagioni che erano proprio abbellite da questo ricevere le lettere di carta, sì. Perché poi appunto venivano legate con un nastrino, con uno corda. Spago, con qualcosa che poi così li raggruppasse, e poi riviste a una certa distanza di età parlano di estati, di primavere, di autunni e di inverni in un modo veramente straordinario. Sì, ma devo dire che la smentisco sulla scomparsa delle lettere, perché il romanzo è uscito da un mese e mezzo e vabbè, sta andando molto bene, credo anche a causa delle lettere che M. Federico si scrivono, l'una da Milano e l'altra da New York, ma girando per librerie per presentare il libro ci sono un sacco di persone che mi avvicinano e mi dicono: sa, io scrivo ancora tante lettere a mano, quasi con timidezza, quasi sentendosi fuori moda. In realtà io credo, potremmo fare un'indagine su questo, che le persone continuino a scriversi. Certo, si scrivono anche tante mail, tanti orrendi messaggini con acronimi e linguaggi nuovi e abbastanza a volte sgrammaticati, però che non è vero che la lettera è così desueta come possiamo pensare. Bene. Da dove partiamo, signora, per colorare questo nostro piccolo e provvisorio cielo? Ma io ho fatto i compiti, quindi ho scelto due frasi dal mio romanzo, ma non scritte da me, perché mi sembrava, il romanzo è pieno di letteratura e di citazioni, pur non essendo noioso, perché la mia protagonista è una libraia e quindi scrive al suo architetto dall'altra parte dell'oceano, citando a volte. Io ho scelto come prima frase una frase che Marina Cvetaeva, una poetessa straordinaria, scriveva nelle sue lunghe lettere a Boris Pasternak. E lei scrive: il tipo di rapporto che preferisco è ultraterreno, vedere in sogno. Il secondo è la corrispondenza. E questa frase mi è piaciuta sempre, cioè è citata in una lettera, è un po' scritto, perché le lettere di Emma Federico sono ricche di poscritti, e mi piaceva perché in quella parola ultraterreno lei cita il sogno come ultraterreno, no? Qualcosa che anche magari quel momento tra il sonno e la veglia in cui non capiamo bene se è un sogno o se è realtà. È una frase che mi piaceva perché è molto poetica e perché in realtà così ci apre una dimensione grande, ampia, larga, e mi piaceva perché è una frase positiva, secondo me. E poi appunto c'era il gioco del il secondo rapporto che preferisco è la corrispondenza, avendo io scelto di far scrivere ai miei protagonisti delle lettere. Ecco, era una frase che, facendo il compito, è stata scelta da me. Ma stavo pensando mentre la ascoltavo, signora, che il giovane Wojtyła, professore, poi dico Cracovia, però probabilmente insegna in un'altra città polacca, comunque insegnava all'università. Nel ricordo dei suoi studenti veniva ricordato come un signore che spesso li rimproverava, non perché non andassero in chiesa o perché fossero iscritti al Partito Comunista per necessità, ma perché tendevano a interrompere così il cordone ombelicale che deve legare una visione poetica della vita alla propria vita. Cioè, poi in realtà, forse considerare la parola metafisica come affare instrumentum regni di preti, pretonzoli e altre, diciamo, più o meno autorità affini, ci siamo dimenticati che di metafisico nella vita ci sono un sacco di altre cose. Certo. Per esempio, appunto, esprimersi in una lettera è qualcosa che va oltre la fisicità. Tentare di inventarsi un poema è qualcosa che va al di là della fisicità, riportare correttamente alla memoria fosse anche semplicemente un odore di una persona. Anche questa è un'esperienza metafisica, cioè forse se riapprendessimo a non pensare alla metafisica come una parolaccia, ne guadagneremmo tutti senza per questo diventare bacchettoni. Sì, certo, anche perché io non sono in grado di dissertare sulla metafisica, ma credo che la vita e quindi anche le parole vengono usate anche come strumento per parlare di simboli, cioè siamo circondati di simboli e non dobbiamo vergognarcene, esattamente come non dobbiamo vergognarci di scrivere delle lettere. Quindi io credo che facesse molto bene il cardinale, l'allora cardinale, insegnante, vescovo, professore, professor Wojtyla, a esortare i suoi ragazzi in questo modo. Ha usato un'altra parola importante, perché oltre, diciamo così, la definizione che lei, con cui ha aperto questa trasmissione, forse era una delle più belle definizioni della metafisica che io abbia mai sentito, che preferisco vivere delle esperienze in modo soprannaturale, sì, attraverso il sogno, attraverso la scrittura, la corrispondenza. Sì. Quindi, diciamo così, l'altra parola, pure la parola simbolo, che era, diciamo così, sempre ricollegato a qualcosa di passatista, poi invece in realtà viviamo in una società che ne produce a tutto spiano. Assolutamente, sì, credo che i simboli, come i segni, insomma, vadano semplicemente assecondati e riconosciuti, e possono anche rendere una giornata più divertente, una giornata più interessante. Credo che si tratti, però, io lo faccio molto, e anche giocando, per esempio quando non so come risolvere un problema o affrontare una situazione, io chiedo, lancio in aria un messaggio in bottiglia, o comunque mi piace immaginare che vaghi nell'etere. Devo dire la verità, forse mi illudo, ma l'ho usata molto anche nel romanzo, questo gioco, ma lo fa molto, ricevo sempre una risposta. E credevo all'inizio, me l'avevano consigliato questo una ventina di anni fa, e davvero ricevo una risposta dall'insegna di un autobus, da un cartello, dallo sguardo di una persona, proprio la risposta vera, e attraverso dei simboli ovviamente, non è che mi ferma qualcuno e mi dice per risolvere questo problema devi fare questo, ma dalle cose più sciocche, devo accettare questa cosa o meno. E quindi io mi diverto molto a caricare la mia vita di segni e di simboli, perché ne rintraccio abbastanza ovunque. Simballo significa uscire da sé e accecarci bene alla stessa anche radice di una parola che era, ci rimanda verso quello che oggi chiamiamo diavolo, ma che nell'antichità era semplicemente il dio che si impossessava dei poeti quando la poesia doveva comandare sul fisico. Ci sono le parole così che si perdono lungamente per strada. Però anche questo ritorno, e sto parlando del suo romanzo, ricordiamo il titolo, Noi due come un romanzo, Mondadori di Paola Calvetti, in libreria da un mese e mezzo, anche un po' questa specie di leggera nostalgia su due figure, lei parla di una libraia. Sì. Cioè, a trovarle ancora, perché ormai anche le librerie sono diventate dei supermarket. Ma guardi, il romanzo è praticamente tutto su questo. Emma è una donna di 50 anni, anzi 49 anni e 8 mesi, che vive a Milano, molto vivace, intraprendente, di mestiere fa l'interprete, traduce, quindi lavora con le parole. Poiché io volevo scrivere una fiaba, e quindi ho dovuto, come dire, ricorrere agli strumenti straordinari che ti danno le fiabe, lei va a fare un viaggio perché capisce che deve cambiare vita, vuole cambiare lavoro, non è più contenta, comincia a avere ritemi quando sale sugli aerei, quindi va a fare un viaggio, e quando torna, poiché è una fiaba, trova la convocazione di un notaio che la informa che ha ereditato una vecchia cartoleria nel centro di Milano, e decide, nonostante le reprimende del suo commercialista, di aprire una libreria, ma non una libreria tra virgolette generalista, una libreria specializzata. E lì commercialista si fa durissimo, perché lei gli dice no, ma io voglio aprire una libreria specializzata in amore. Lui dice ma tu sei pazza, oggi ci sono le Fnac, le Feltrinelli, le Mondadori, i supermercati, gli ipermercati, il libro via internet. E lei dice no, non ti preoccupare, io, e mi dice poi l'amore è un argomento così di nicchia, e lei dice no, perché tutta la storia della letteratura è un ininterrotto fiume d'amore. cioè, quindi non è una figura obsoleta. Beh, poi guardi, le posso assicurare che oggi il 70% del fatturato delle librerie in Italia è fatto dalle librerie indipendenti. Questi sono dati ufficiali. È vero che le grandi librerie, le grandi catene hanno più merce perché hanno sicuramente più titoli, però me l'ha detto proprio un libraio di Roma: il 70% del fatturato è fatto ancora da librerie o indipendenti o di catena, ma piccole librerie, ecco, non si immagina il supermercato. E quindi io credo che la figura del libraio non è così scomparsa come si pensa, un po' come le lettere. Sì, bisogna andarsene un po' a cercare, perché a volte beh, posso dire una cosa, invece cercavo un fiorista ed ero nel centro di Roma, in questa zona intorno a Via del Corso, e ho fatto molta fatica a trovare un fiorista. Poi ho trovato una bancarella che faceva delle consegne, perché dovevo mandare un mazzo di fiori. Ecco, io credo che per esempio i fioristi, i fiorai, siano invece dei negozi assolutamente in via di sparizione. Non ce ne sono più, è difficile nel centro di Roma trovare un fioraio, o sono stata sfortunata io, ma invece di librerie se ne trovano ancora. Posso fare un cattivo pensiero? Prego. Leggendo la sua biografia, cioè, sì, poi in realtà la scelta del personaggio del suo romanzo sembra un pochettino anche rassomigliare a una certa giornalista che per guadagnare il pane quotidiano addirittura lavora a Repubblica. Poi però, lavoravo a Repubblica, poi sì. Però, diciamo così, lascia e va a fare l'ufficio stampa a Teatro della Scala, sì, poi al Turing, cioè in luoghi dove appunto i simboli e i sogni, sì, devo dire che e io le sono immagini stata transitorie vengono così riproposte come pane quotidiano, mentre in altri spazi. Sì, lei dice non faccio il direttore della comunicazione in un'azienda, ma ho sempre avuto la fortuna, perché è stata una grande fortuna, di lavorare in luoghi dove si vedeva la bellezza, dove facevano cose molto belle. Il lavoro del comunicatore è uguale dappertutto, non cambia. Certo è che io ho sempre preferito comunicare Traviata o un'altra opera o Mozart, piuttosto che ecco, magari lavorare in un'azienda che produce tondini o telefonini. Però questa è stata la fortuna, ecco, cioè è stata una fortuna. Il passaggio dal giornalismo alla comunicazione non è così traumatico come passare da essere un interprete a fare la libraia. Ecco, fare la libraia è proprio un altro mestiere. Sì, anche se poi, diciamo così, chi ha già qualche decennio nel settore ha assistito a quella tristissima stagione in cui dalla composizione a caldo si passò prima alla composizione a freddo, e ora tutto viene impaginato e preordinato su supporto elettronico. Però è anche vero che se i giornali vanno male, i libri continuano, i giornali sono in una crisi evidente. Era solo per chiedere se fare il giornalista è ancora comunicare. Questo. No, questa è una domandona. C'è giornalista e giornalista. No, quello che cambia è il mezzo, perché è vero che i giornali cartacei sono in una crisi proprio di mercato, come dire, sotto gli occhi di tutti, quindi non svelo niente. È anche vero però che mi consola sapere che morirò quando sarà il mio momento con i libri di carta, che ancora sopravvivono con grande dignità, perché internet non ha potuto sostituire il libro, anche per banalissime questioni di costi. Per scaricare un libro da internet, in quanto a carta e inchiostro, costa esattamente come comprarlo. Quindi Paola Calvetti, la nostra guida questa settimana, è l'autrice di Noi due come un romanzo, Mondadori, sua quinta opera. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo e di Paola Calvetti, la nostra guida questa settimana, che abbiamo deciso di riqualificare diversamente da quando la scheda che ci avevano dato dicesse giornalista scrittrice, invece l'abbiamo riqualificata scrittrice e giornalista. È la quinta opera, Noi due come un romanzo, il suo quinto libro, da un mese e mezzo in libreria per Mondadori. Da dove ripartiamo per questo ripartiamo cielo dalla un po' vagabondo? Frase, bene. Da un anno a questa parte, di tanto in tanto, durante le sue letture gli sembrava di incontrare altri lettori. Di tanto in tanto, solo raramente, ma in maniera sempre più chiara, si rammentava di queste persone, per lo più sconosciute, che leggevano lo stesso suo libro. Ricordava alcuni particolari come se li avesse vissuti davvero, vissuti con tutti i suoi sensi. A dire il vero, riflettendo seriamente su questi strani fenomeni, arrivava lui stesso alla conclusione che la sua personalità vacillasse pericolosamente ai limiti della ragione. Oppure tutto era soltanto un'illusione dovuta a eccesso di letteratura e carenza di vita? Questa frase non è mia, naturalmente, ma è di Goran Petrovic, uno scrittore. In questo momento sto facendo una figuraccia terribile perché mi pare serbo. Diciamo che non è spagnolo, via. No, ecco, non è né spagnolo né statunitense. E dal romanzo 69 cassetti, un romanzo che non è molto conosciuto, credo sia un fandango, e che viene letto nel mio romanzo durante la commemorazione di uno dei clienti della libreria, un signore anziano, Ernesto, che muore, e quindi tutti i clienti della libreria lo ricordano con un lungo reading, e poiché lui collaborava nella libreria dopo essere stato andato in pensione, ho trovato questa frase che mi sembrava riassumesse molto bene quello che è lo spirito dei lettori fratelli, di come si sta bene quando accade anche col cinema, secondo me. Si è letto lo stesso romanzo, oppure si è visto lo stesso film, e si ha voglia di confrontarsi, di appassionarsi insieme e di raccontarcelo. E devo dire che a me è successo davvero, perché io, prendendo molto il tram a Milano, tram metropolitane, quando non vado in bicicletta, quindi durante l'inverno, e io leggo sempre in tram, e sempre libri piccoli, possibilmente tascabili, perché a volte si deve stare in piedi così, e di libri ne escono tanti, ce ne sono tanti, eppure mi sono molto divertita un giorno perché stavo leggendo in piedi, in un tram affollatissimo, lo stesso romanzo della mia vicina, e ci siamo messi a chiacchierare. Quindi quando ho riletto questa frase ho capito qual era la sensazione dell'essere lettori fratelli, cioè di come è bello, per chi ha passione per la lettura, io ce l'ho, poi soprattutto per la narrativa, dirà anche tu stai leggendo lo stesso libro oppure l'hai letto, insomma, e confrontarsi. E quindi mi sembrava carino per la trasmissione scegliere quest'altra frase. Una delle migliori riuscite della mia vita, diciamo così, mi confesso, è quello di essere riuscito a non far capire più a nessuno quali fossero i libri che mi piacessero, perché così nessuno me li regala, e ne ho 6.000 in casa. Dopo epiche litigate tra il liceo e la fine del mio primo ciclo di studio all'università, con ragazza, per Il piccolo principe e per La ricerca di Marcel Proust. Appartengo alla categoria di quelli che probabilmente non l'hanno capito, perché considero sia il primo sia il secondo, insomma, sostanzialmente dei libri da tenere vicino al letto la sera per notti particolarmente... Soprattutto Proust tradotto da Raboni. Soprattutto sì, per notti, diciamo, particolarmente agitate dall'insonnia. E allora così nego... ferocemente il piacere di una lettura con chi me ne voglia parlare, temendo la litigata. Ma perché ha paura della litigata, oppure che glielo... Non capivo... E mi sono accorto che ha paura che glielo regali, no? Sì, sì. O comunque che me lo regalano, e che poi sostanzialmente, perché lui l'ha già letto o lei l'avrebbe già letto, e diciamo così... E glielo consigliava, sì, oppure glielo regalava per condividere. Per poi aprire una discussione che va, diciamo, fatalmente... rischia di periclitare, perché voglio il piacere alla lettura, un piacere segreto per me. Però constato così una cosa buffa. Beh, lei nega in questo modo la straordinaria... Mi dispiace, siamo in una radio... Stavo negando la fratellanza dei lettori. No, sì. La fratellanza... Beh, lei negava la fratellanza perché lei legge così. Però io credo che ancora parlo da scrittore, da scrittrice, virgola giornalista o barra giornalista, come preferisce, nonostante appunto l'imperativo dei media e l'aiuto che danno, per esempio, mezzi di comunicazione come la radio, non lo dico perché sto in una radio che amo e che ascolto, il passaparola, il fatidico passaparola è ancora, può essere ancora, uno dei sistemi di comunicazione di un libro più efficaci. Ma le segnalo due casi, gli ultimi due casi internazionali nati, provato, sul passaparola sono stati L'eleganza del riccio, parlo di narrativa, sì, contemporanea, sì. E Firmino di Sam Savage, che era stato stampato in 1.000 copie, che poi un editore spagnolo scoprì, che ha tradotto, è diventato un caso editoriale in Spagna, ma solo ed esclusivamente col passaparola. Il suo autore è un signore, un ex professore universitario signora di 70 anni che vive in un remotissimo paese di non so quale provincia americana, e sono due libri bellissimi, due bei romanzi che sono arrivati come bouche à l'oreille attraverso il passaparola. Se tutti i lettori fossero come lei, questo non sarebbe potuto accadere, perché è vero che la lettura è un fatto solitario, però può non essere un fatto egoistico, ecco. Invece a me piace molto, quando leggo un libro poi piace consigliarlo. È vero, però posso ricordarle, così tanto per fare un po' di cattiveria clericale, che l'insostenibile leggerezza dell'essere divenne un libro cult solo perché era il tormentone di una trasmissione satirica televisiva. No, ma infatti non negavo che sono le vie del Signore sono infinite rispetto alla comunicazione dei libri. Gliene cito un'altra, era appena uscito ed era un autore ancora sconosciuto in Italia, un libro gioiellino, una decina d'anni fa, se non ricordo esattamente, e di Sandor Marai, il primo romanzo che Adelphi pubblicò di Sandor Marai, Le Bracci, pubblicato postumo perché Marai era già morto suicida, e Calasso, come fa spessissimo, fece scoprire questo scrittore. Però era uscito il libro, non se ne sapeva niente, non era nella lista dei bestseller. Casualmente, ricordo benissimo che, non ricordo se era in coincidenza della sua nomina o incarico Presidente del Consiglio, era il classico giorno romano, il Presidente D'Alema uscì da una riunione però molto importante, ecco, non ricordo se aveva ricevuto un incarico, se era diventato ministro, ma non ricordo, però molto importante, quindi era circondato dai soliti 200 giornalisti con microfono, che dopo gli posero le domande, come dire, più sull'attualità e sul suo incarico, poi lui aveva in mano questo libro e un giorno un cronista gli chiese: cosa sta leggendo, Presidente? Lui disse: un gioiello, questo libro, Sandor Marai, Le Bracci, andò in classifica dopo due giorni, lo meritava tutta la classifica perché è un bellissimo romanzo. Per cui le vie sono tantissime, insomma, che poi il cosiddetto marketing spontaneo nel libro, io, ecco, forse sono un'ingenua, un'illusa, ma continuo a crederci, insomma, quindi che sia un passaparola, che sia una coincidenza, che sia una trasmissione ironica, che sia un politico che casualmente ha un libro in mano che viene inquadrato, siccome credo che i libri vadano sostenuti, perché vanno sostenuti i librai, perché comunque i libri sono i libri, qualsiasi sia il mezzo per farli arrivare a lettori non solitari ed egoisti come lei, sia benvenuto. Beh sì, ma appunto lei sta difendendo la fraternità dei lettori e dei librai, dei librai, diciamo, tesi tipicamente della Rivoluzione Francese. Io in tempi in cui, diciamo, sei cattolico devi essere per forza passatista, qualche tentativo l'ho fatto anch'io, perdendo, ammetto la mia sconfitta e mi ritiro con perdite. Noi dobbiamo ringraziare Paola Calvetti, è stata una guida veramente serena, simpatica e fraterna. Grazie. Il suo libro, Noi due come un romanzo, per Mondadori, da un mese e mezzo in libreria, è il suo quinto romanzo. Questo è, diciamo così, abbastanza corposo, e quindi il mio primo romanzo corale con tanti personaggi, promette oltre 340 pagine, quindi 340 pagine circa, quindi promette diverse ore di serenità, così come speriamo siano stati questi nostri minuti questa settimana. Ci risentiamo alla prossima puntata. Grazie a Riccardo e a Alessandro che ci hanno aiutato come al solito magistralmente. Grazie a voi e a risentirci.